Oggi ho una maglia che non mi dona. Corro nel parco della mia zona. Ma vorrei dirti, non ho paura. Vivere un sogno porta fortuna. La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine. Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai. Ho un angelo custode sadico, trovo una scusa, ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare. Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, venendo qui da solo, vedendo il buio, piango come uno scemo. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. Sembra di morire quando parli di me in un modo che odio. Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono. Sotto questo temporale piove sulla cattedrale. Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto, ma se poi non mi trovi, chiamami per nome. Qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby. Le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby, te, baby.